For all the fears I hold inside, for all the times I tried, so I come back to find a way. Tonight you're mine, and I wanna go away. Tonight you're mine, and I wanna go away. I found you there again in my arms, like a long time ago. Something more. Don't run away, give in to the pain, 'cause I'm just breaking through. Don't run away. Quarta e ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Several Union dal titolo Awake From The Game. Come si chiamava questa canzone? Era Tonight You're Mine. Quali ora i progetti per il futuro prossimo della band? Beh, io direi tantissimi. Primo tra tutti suonare. È sempre importante. Ovviamente, sì, no, perché insomma abbiamo fatto tante belle cose, piazzato il disco, anzi esce questa settimana, quindi siamo contentissimi. Ma a parte questo, ora è il momento di calcare un po' di palchi e di far sentire la nostra musica. Non solo qui, ma anche all'estero. Abbiamo qualche tour in programma, ancora tutto top secret, ma vi assicuro che se ci seguirete lo saprete, saprete tutto al più presto. Siamo un quinto brano, cosa scegliete di far sentire? Beh, ora è il momento della ballad del CD, Fallen Fade. Every night, holy. E il tempo come sempre vola, noi siamo quasi in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il media player. Un grazie a Several Union per la partecipazione, a questo punto di nuovo a voi la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco ed un calendario di live già definiti. Beh, ricordiamo a tutti che Wake from the Game sarà in tutti i migliori negozi di dischi da questa settimana in poi, è distribuito da Rude Records. E per i nostri live invece ricordiamo stasera al release party a Cesena, tutti gli altri sono invitati a Roma al 7 gennaio e per tutte le altre live, info sulla band, aggiornamenti e tutto e quant'altro, rimandiamo al sito internet www.severalunion.it. Social network, prima tra tutti Facebook, rimanete aggiornati e veniteci a vedere live. Ora non per chiudere questa puntata. Chiudiamo la puntata con quello che in realtà è il brano d'apertura del CD, Erase the Sorrows. Gianluca e Several Union vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao!